I have to depend on Chandra. Deve dipendere da importante. I'm very grateful. Sono ringraziato. Molto ricordato. Avete tutti? Sì. Con Gianni ce n'è qualcuno in più? Did I have one? Uno per me. So I shall explain this little ceremony. We can begin with the regole di condotta. Quindi possiamo cominciare con le regole di condotta. So the first few are sila. È sotto sila. Sì. Sì, sì. Sila. Torno, giro. So for this for the time that we are here, we're not going to kill each other. Per il periodo in cui siamo qui non ci uccideremo vicenda. We're not going to thieve from each other. Né ci ruberemo le cose vicenda. We're going to abstain from erotic and romantic delight. Quindi ci asterremo dai piaceri erotici e romantici. But only for this retreat. Ma solo per questo ritiro. So, don't despair. Non disperare. We need all the energy we can get to continue our investigation. Perché abbiamo bisogno di tutta l'energia che abbiamo per continuare la nostra indagine, la nostra investigazione. The next one is easy to keep because we keep the silence. Quella successiva è facile da rispettare perché manteniamo il silenzio. The next one is not to take anything which speeds the mind up. Quindi quella successiva è di evitare di prendere qualunque sostanza che possa offuscare la mente. We have to abandon coffee. Dobbiamo abbandonare il caffè. We try not to eat. We only eat what is necessary. Quindi mangiamo solo quello che è necessario. I'll talk more about this tomorrow morning. E domattina ne parlerò più diffusamente. Everybody who comes on retreat has some sleep imbalance. Tutti coloro che vengono a un ritiro hanno una sorta di squilibrio riguardo al sonno. Either they're sleeping too little or too much. Dormono o troppo poco o troppo. So it takes two or three days to sort out our sleep. E quindi ci vogliono due o tre giorni proprio per riequilibrare un pochino le nostre fasi di sonno veglia, diciamo. So if we feel tired over the weekend, then we have to be gentle with ourselves. Quindi se ci sentiamo stanchi in questo weekend dobbiamo essere anche un po' delicati e rispettosi verso noi stessi. But not too gentle. Ma non troppo delicati. We have to stop entertaining ourselves. Dobbiamo anche interrompere per il momento questa attività del, come dire, divertire noi stessi, no? Divertirci in qualche modo, intrattenerci. We want to try to stop the input. Perché cerchiamo di interrompere l'input, cioè le cose che ci arrivano dall'esterno. In order to see more clearly the output. E questo per vedere più chiaramente invece ciò che noi produciamo, quello che esce da noi. So if you want to keep a small diary at the end of the day, that's fine. Quindi se volete tenere un diario di bordo, diciamo, alla fine della giornata va bene. But you have to be careful doesn't go into an autobiography. Ma state attenti che non diventi la vostra autobiografia. Not to indulge. Yes, not to be concerned about how we look. E poi l'impegno successivo è quello di non essere troppo preoccupati del nostro aspetto. So abandon aftershave, perfume, bangles, beads, throw them all away. Quindi abbandonate dopo barba e profumi, le collane, le perline, buttate tutto via. And finally, to respect the noble silence. E l'ultimo poi è quello di rispettare il nobile silenzio. Silence here means not to communicate. E qui il silenzio significa non comunicare. So when we look at somebody, we beckon a response, you see. Quindi quando noi guardiamo una persona intenzionalmente, è come se noi richiamassimo una risposta. Yeah, so to keep the real silence, one goes around like a ghost. Quindi per mantenere un vero stato di silenzio, uno va in giro come se fosse un fantasma. We want to take a real interest in our own psychology. Perché noi vogliamo sviluppare un vero interesse riguardo la nostra psicologia. Nobody else will take as much interest. Non ci sarà nessun altro che sarà così interessato. Only I myself am interested in my psychology. Solo io posso essere interessato alla mia psicologia. So those are our just general rules of conduct. Quindi queste sono le nostre regole generali di condotta. And just to reinforce what Gianni said about being on time for the sittings. Quindi voglio solo sottolineare quello che già ha detto Gianni riguardo all'essere puntuali nelle sedute. If you happen to be more than 5, 6, 7 minutes late, it is better to sit in your room or somewhere else. Quindi se siete in ritardo di più di 5 o 7 minuti, allora è meglio sedervi nella vostra stanza. O c'è la saletta di meditazione più piccola sopra. Sì. So the seminary is bowing is a very strong body language for surrender. Quindi il fatto di inchinarsi è un linguaggio del corpo molto forte che indica la resa, l'arrendersi, l'abbandonarsi. Yeah. You don't have to do this, you understand? Quindi capite che non è necessario, lo facciate. But that's the real meaning of bowing. Ma è questo il vero significato del inchinarsi. Other people bow for other reasons, out of gratitude, out of praise. Altre persone si inchinano per altri motivi, per un senso di gratitudine o di lode. And we're bowing to the Buddha, Dhamma and Sangha. E noi ci inchiniamo al Buddha, al Dhamma e al Sangha. Where the Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddha Sa, that's just honoring the teacher. Invece poi l'omaggio, quello che ha appena detto nella lingua Pali, questo è un modo di onorare l'insegnante, il maestro. Yeah, so just for this time we are following his teachings, you see. Quindi per questo periodo noi stiamo seguendo i suoi insegnamenti. So it allows us to give ourselves and to put away any doubts. Quindi questo è un modo di permettere a noi stessi di darci totalmente alla pratica, di mettere da parte i nostri dubbi. So after we have given ourselves to the practice, then we can decide whether it's any good for us, you see. Perché solo se ci doniamo completamente alla pratica possiamo poi decidere se ci fa bene oppure no. Buddhan saranam gacchami, Dhamman saranam gacchami, Sangham saranam gacchami, Tutiyampi, Tatiyampi. So we're taking refuge in the Buddha. Poi ci sono i tre rifugi, e quindi sono nella lingua Pali. Noi prendiamo il primo rifugio nel Buddha. So traditionally the Buddha is a historical personage 2500 years ago. Quindi tradizionalmente il Buddha è un personaggio storico vissuto 2500 anni fa. But spiritually speaking, it's the Buddha here within us. Ma dal punto di vista spirituale è il Buddha che abbiamo dentro di noi. This Buddha has to be liberated. Perché questo è il Buddha che va liberato. The Dhamma is the teaching which takes us to that liberation. Il Dhamma rappresenta gli insegnamenti che ci portano a quella liberazione. So here it's specifically the Buddha Dhamma. Qui è il Buddha Dhamma specificatamente. But it can be anything which you feel is helping you spiritually. Ma potrebbe essere qualunque cosa che voi riteniate che vi stia aiutando spiritualmente. And the Sangha traditionally refers to people who've experienced Nibbana. Il Sangha tradizionalmente si riferisce a tutte quelle persone che hanno avuto un'esperienza diretta del Nibbana. So they are witnesses to the Buddha's teaching, you see. Quindi come se fossero testimoni degli insegnamenti del Buddha. But in the spiritual life it's each other, you see. Ma nella vita spirituale siamo tutti noi. It's much easier to do this practice with other people than just by ourselves. Perché è molto più facile fare questa pratica con gli altri che non da soli. So we repeat that three times. E quindi ripetiamo tre volte i rifugi. On the other side, this is what we're investigating. Dall'altra parte invece ci sono dei versi che rappresentano ciò che noi stiamo ricercando. Yeah. We're trying to understand the meaning of impermanence. Stiamo cercando di comprendere il significato dell'impermanenza. We want to understand how we create suffering for ourselves. Cerchiamo di capire com'è che noi creiamo sofferenza per noi stessi. And in so doing, hopefully we can understand how to get rid of it. Facendo così si spera che impareremo anche a liberarcene. And in our investigation we want to investigate our sense of identity. Who are we? E in questa ricerca cercheremo anche di capire il nostro senso di identità, cioè chi siamo veramente. Or what are we? O cosa siamo? And then there's some verses from the Buddha. E poi ci sono dei versi, delle parole pronunciate dal Buddha. So then I'll do a standing meditation. Poi faremo una meditazione in piedi. And then a sitting meditation. Poi una meditazione seduta. And then I'll do metta, goodwill practice. E poi faremo la pratica di metta, cioè della benevolenza. And then we'll go to bed. E poi andiamo a dormire. Andiamo a letto. Basta. So follow me. Oh, just before I begin, some postures. This posture will cause you a lot of pain. Allora, prima di cominciare, qualcosa riguardo alla postura. Quella postura ti creerà molto dolore. If you like pain, stay like that. Se ti piace il dolore, stai così. It's better to sit like this. È meglio stare su un panchetto. You can get cushions to tell me. Sì, possiamo. Ci sono anche dei cuscini fuori, se volete. I think this is very low. Your leg will go dead. Sei molto bassa, potrebbero addormentarsi. Yeah. Ah, okay. This lady with her knees up. Le ginocchia non dovrebbero mai essere alte. You want to sit higher. Quindi dovresti mettere qualcosa. Sì, più. Un altro cuscino. Sì. Le ginocchia devono sempre essere basse. Yeah. Or to sit kneeling. Oppure in ginocchio su un panchetto, oppure come adesso si è messa lei. The back has to have its natural curvature. La schiena deve avere la sua curvatura, scusa, naturale. If your knees are, see your knees, you see, terrible. If your knees are higher than your hips, the lower back gets pushed out. Perché se le ginocchia sono più alte delle anche, allora la parte lombare della schiena viene spinta in fuori. And that begins to create pain. E poi comincia a creare dolore. Ah. So your knees must be below your hips, you see. Quindi è per questo che le ginocchia devono essere sotto i fianchi. Non guardate me come esempio. Sura orrendo, ma è la mia. If she wants to sit on a higher cushion. Forse tu hai bisogno di un cuscino più alto. Sì. You're talking about her, right? Yeah. Sono anche sedie, se volete. Yes. If the posture gets too painful, by all means, you know, sit on a chair. Quindi se la postura vi crea dolore, sentitevi liberi di sedervi su una sedia. So there's chairs at the back, you see. Sono sedie lì. You should try kneeling, ginocchio. A girare le ginocchia. See, this is better, I think. See,

Esiste ciò che non nasce, non muore, non è creato, non è condizionato. Rifugio, porto e casa, perfetto appagamento e pace. Così come il grande oceano ha un solo sapore, il sapore vegetale, così il nirvana ha un solo sapore, il sapore della libertà. Tutti i fenomeni condizionati sono destinati per la cultura a deperire. Lavorate diligentemente per la vostra liberazione. So now, just take a moment to commit yourself to the cause for your own benefit. Adesso prendetevi un momento per impegnarvi in questo, per questo ritiro, per il vostro beneficio. Facciamo una meditazione in piedi. So make sure you're standing on some firm ground. Quindi assicuratevi di essere in piedi su un, come dire, un sostegno solido, ecco. So lifting up to the top of the head. Quindi vi raddrizzate, raddrizzate il corpo nella sommità del capo. And your eyes are just placed on the floor ahead of you, resting on the floor ahead of you. Gli occhi come se riposassero guardando il pavimento davanti a voi. So just bring your attention to the top of your head. Portate l'attenzione alla sommità del capo. And just come down your face slowly. Lentamente scendete con l'attenzione sul viso. When you get to the jaw, is it tense? Quando arrivate alla mandibola, come è teso? È tesa? So shake it about a bit. Se è un po' tesa, scuotetela un pochino. Lips together, teeth apart. Le labbra sono unite, ma i denti distanziati. The shoulders. Le spalle. Do they need a squeeze? Hanno bisogno di essere un po' strizzate. Hold for a little while and then just slowly relax. Quindi trattenetele un pochino e poi lentamente rilassate. Coming down into the chest, the breath. Scendete nel petto, fate attenzione al respiro. Down towards the abdomen. Poi andate verso l'addome. And down towards the feet. Poi scendete ai piedi. What sensations can you feel on the soles of your feet? Che sensazioni sentite sulle piante dei piedi? Can you distinguish two types at least? Riuscite a distinguere almeno due tipi di sensazioni? So one is pressure. Una la pressione. The other one, some form of warmth or heat or cold. L'altro può essere una forma di calore o di fresco. And there are those sensations that tell you what you're standing on. Sono quelle le sensazioni che vi dicono su cosa state, siete in piedi, su cosa poggiano i piedi. Are there parts of the feet you can't feel? Ci sono parti dei piedi che non riuscite a percepire. Or very neutral. Oppure hanno una sensazione neutra. Acknowledge how all the sensations are continuously changing. Riuscite a riconoscere come tutte le sensazioni cambiano in continuazione. As the body rebalances itself. Man mano che il corpo si riposiziona, ritrova un equilibrio. Can you acknowledge that these sensations arise whether you want them to or not? Riuscite a riconoscere come queste sensazioni sorgono, che voi lo vogliate oppure no? They're not under our control. Non sono sotto il nostro controllo. Body is rebalancing itself. Il corpo che si riequilibra, che trova il suo equilibrio. Doesn't need us. Non ha bisogno di noi. So take your time, come up the body. Quindi prendetevi un vostro tempo, cominciate a salire con l'attenzione lungo il corpo. And get in touch with the feelings on the surface of the body, inside the body. E cominciate a entrare in contatto con le sensazioni sulla superficie del corpo e dentro il corpo. And be aware of areas where there does not seem to be any feeling, empty areas. E cominciate a essere consapevoli di quelle zone dove sembra non esserci alcuna sensazione, come se fossero delle zone vuote. Can you feel the breath in the abdomen? Riuscite a sentire il respiro nell'addome? Or perhaps in the stomach? Forse nello stomaco. Or perhaps you have a shallow breath just in the chest? Forse avete un respiro un po' corto, lo sentite nel petto? Heartbeat. Il cuore che batte. Are the shoulders still relaxed or do they need another squeeze? Le spalle sono ancora rilassate o hanno bisogno ancora di una piccola strizzatina? The jaw still relaxed. E le mandibole sono ancora rilassate. get to the top of the head, the scalp, scan it like you did the soles of your feet. Quando arrivate di nuovo in cima alla testa, al cuoio capelluto, anche lì esploratelo un po' come avete fatto con la pianta dei piedi. Keeping your eyes just resting on the floor. Mantenete gli occhi come fossero appoggiati sul pavimento. Throw your attention completely outwards. Quindi buttate la vostra attenzione completamente all'esterno. Shapes and colors. Ci sono forme, colori. Sounds you can hear. Potete sentire dei suoni. Presence of other people. La presenza di altre persone. The atmosphere of the room. L'atmosfera in questa stanza. So put your attention completely out there. Mettete completamente la vostra attenzione lì fuori. Now at the same time become aware of the in here. E allo stesso tempo adesso diventate consapevoli con il di dentro. Feelings in the body, sensations. Quindi le sensazioni, le percezioni nel corpo. The breath. Il respiro. So we have a global awareness. Quindi abbiamo una consapevolezza globale. Both the inside and the outside. Il dentro e il fuori. This is the world we're actually living in. Questo è il mondo in cui effettivamente noi viviamo. And relax. Relax into this present moment. E rilassatevi, rilassatevi in questo momento presente. Wide awake. Pienamente svegli. Relaxing into the present moment, wide awake. Ci rilassiamo nel momento presente, pienamente svegli. Inhabiting the present moment. Stiamo abitando il momento presente, dimorando nel momento presente. In this mode, we can give up the idea of achieving something. In questa modalità, diciamo, possiamo rinunciare all'idea di dover per forza ottenere o raggiungere qualcosa. When we're achieving, we're always doing something now for some future result. Quando vogliamo raggiungere qualcosa, facciamo qualcosa adesso per poter raggiungere un risultato futuro. But just being here, this is the result. Ma è semplice essere qui e questo è il risultato. We relaxing into the present moment, wide awake. Ci rilassiamo nel momento presente, completamente svegli. Here we can give up ideas of going somewhere. Quindi qui possiamo rinunciare all'idea di andare da qualche parte. We can give up planning. Possiamo lasciar perdere il programmare. In the present moment, there's no future. Nel momento presente non esiste il futuro. In the present moment, we're not going anywhere. Nel momento presente non stiamo andando da nessuna parte. We've already arrived. Siamo già arrivati. Just relaxing, relaxing into the present moment, wide awake. E semplicemente rilassiamoci, rilassiamoci nel momento presente, pienamente svegli. In this mode, we're not responding, we're not reacting. Questa modalità non stiamo rispondendo, non stiamo reagendo. We don't have to perform. Quindi non dobbiamo eseguire qualcosa. We don't have to be somebody. Non dobbiamo essere qualcuno. Relaxing into the present moment. Ci rilassiamo nel momento presente. Inhabiting the present moment. Dimoriamo nel momento presente. Wide awake. Completamente svegli. Achieving nothing, going nowhere, being nobody. Senza voler raggiungere nulla. Senza andare da nessuna parte, senza cercare di essere necessariamente qualcuno. In this mode, we are developing four factors that lead to liberation. In questa modalità stiamo sviluppando quattro fattori che conducono alla liberazione. Awareness, mindfulness. Presenza mentale, la consapevolezza. A calmness. Una calma. A steadiness of attention. Una fermezza nell'attenzione. I prefer this to the word concentration. Io preferisco usare questa espressione, la parola concentrazione. I think the word concentration makes us tight. Okay, la parola concentrazione ci rende un po' tesi. Just steadiness of attention. Una semplice fermezza dell'attenzione. And equanimity. E l'equanimità. Equanimity here means receiving without prejudice. Qui equanimità significa il ricevere senza nessun pregiudizio. Without preference. Senza nessuna preferenza. Without desire. Senza alcun desiderio. Without aversion or fear. Senza né avversione né paura. An open mind, open heart. Quindi una mente aperta, un cuore aperto. Without this attitude, we cannot investigate the teachings of the Buddha properly. Senza questo atteggiamento, questa attitudine, Non possiamo investigare, ricercare gli insegnamenti del Buddha nel modo giusto, appropriato. We will always be distorting our search with our own opinions and ideas. Perché sarà una faremo una distorsione della nostra ricerca basata sulle nostre opinioni, le nostre idee. This mode of just being in the present moment is very important for daily life. Questa modalità dell'essere semplicemente nel momento presente è molto importante nella nostra vita quotidiana. We have to be able to stop. Dobbiamo essere in grado di fermarci. When we're in this mode, we can see an intention arise. Quando siamo in questa modalità, riusciamo a vedere come sorge un'intenzione. And if we have this time, we can discern whether it is good for us or not so good. E se riusciamo a prenderci questo tempo, riusciremo a discernere se questa intenzione ci porta verso qualcosa di buono per noi o di non buono. If we can just allow those intentions we see are unwholesome to pass away. Se noi riusciamo a consentire, a permettere a quelle intenzioni che non sono salutari, semplicemente di passare. And if we can reinforce those intentions we see are wholesome. E se invece riusciamo a rinforzare quelle intenzioni che noi vediamo essere salutari. Just in this very simple way we can completely change ourselves. In questo modo così semplice riusciremo a cambiare noi stessi completamente. But we need to have this awakeness. Ma dobbiamo avere questo stato di risveglio, dobbiamo essere vigili. Relaxed and alert. Quindi rilassati e vigili. So now our next intention is to sit. Quindi adesso la nostra prossima intenzione è quella di sederci. So really take your time. Quindi prendetevi veramente il vostro tempo. Be aware of every movement it takes to get us into a sitting posture. Siate consapevoli di tutti i movimenti necessari per assumere una posizione seduta. Intending to sit. Intenzione di sedersi. So now make sure you're sitting comfortably. Assicuratevi di essere seduti comodamente. It doesn't matter what you do with your legs. No, non importa quello che state fate con le vostre gambe. You can take them off if you want. Se volete potete anche togliervele. It's important that the spine has its natural curvature. L'importante è che la spina dorsale abbia la sua curva naturale. And that you're lifting up through the top of the head. Perché vi state, come dire, estendendo, allungando dalla cima del capo, della testa. If during the sitting your body begins to slouch because of tiredness. Se vedete che durante la seduta il corpo si affloscia perché siete stanchi. So just very gently lift it up. Molto delicatamente raddrizzatelo. So just pass your attention down the body. Quindi fate scorrere l'attenzione lungo il corpo. The jaw relaxed. La mandibola rilassata. Lips together, teeth apart. Le labbra unite e i denti separati. Shoulders. Le spalle. And bring our attention to the breath. Facciamo l'attenzione al respiro. In this particular tradition, we prefer the breath at the abdomen. In questa particolare tradizione, noi preferiamo il respiro così come percepito all'altezza dell'addome. If you cannot feel it there, perhaps in the stomach or even the chest. Se non riuscite a sentirlo lì, potete scegliere lo stomaco o anche il petto. If you're already established at the nostrils. Se però siete già stabilizzati con attenzione al respiro alle narici, Then for the weekend it's best to stay there. Allora se state solo per il weekend è meglio rimanere lì. And for those who are staying for the week, they can decide whether they want to use the abdomen or the nostrils. Per quelli che invece si fermano per tutta la settimana, potete decidere se preferite stare sull'addome o alle narici. If you are established at the nostrils, then you have to make a very firm determination to move to the abdomen. Se siete abituati a stare a sentire il respiro alle narici, allora dovete prendere un impegno deciso di rimanere sull'addome. The mind will always go back to the nostrils for a while. La mente per un po' tornerà sempre alle narici. It can take 3 days to re-establish your concentration on the abdomen. Potrebbe richiedere 2 o 3 giorni per ristabilire l'attenzione all'addome. So, just getting in touch with the sensations caused by the breath. Quindi entriamo in contatto con le sensazioni causate dal respiro. And we use a little noting word to keep the intellect happy. Usiamo una piccola etichetta mentale per tenere felice, diciamo, l'intelletto. To stop the mind wandering. Questo per interrompere la divagazione mentale. As the abdomen rises, rising. Mentre l'addome si alza, diciamo alzare. As it falls, falling. Quando si abbassa, abbassare. You can repeat these words as many times as you want. E potete ripetere queste parole tutte le volte che volete. If the mind is very dull, it can help repeating them. Se la mente diventa un po' annebbiata, un po' addormentata, può essere un aiuto ripeterle. Also, if the mind is very busy, it can keep it controlled. Anche se la mente è molto, molto agitata, impegnata, questo può aiutare a tenerla sotto controllo. So, just gently placing the attention on the sensations caused by the breath. Quindi delicatamente poniamo la nostra attenzione sulle sensazioni causate dal respiro. Rising, falling. Alzare, alzarsi, abbassarsi.